di musica, però il periodo di cui parla Marco Pontone nel suo libro l'ho vissuto a Bolzano. Quando quindi Valeria mi ha chiesto di organizzare qualcosa per la presentazione di questo libro, ho ritenuto utile realizzare questo collage con l'archivio di TV Alpi, perché queste immagini a noi non ci dicono molto, perché abbiamo vissuto questi avvenimenti, però ai nostri figli e ai nostri nipoti faranno più o meno lo stesso effetto che fanno a noi i cinegiornali dell'Istituto Luce, no? Cioè, ma guarda come si vestivano questi, guarda come suonavano, cosa cantavano, cioè veramente avranno questo tipo di sensazione. A noi invece ci fanno sempre piacere, perché è sempre piacevole ricordare così quando si aveva 20 anni, no? Quindi per noi ricordare gli anni 60, 70, 80, oppure per i nostri genitori ricordare anche gli anni 40, no? Se ci pensate, è una cosa impressionante. Queste persone che avevano nostalgia di quando c'era la guerra, però c'era la guerra, ma avevano 20 anni, no? In fin dei conti. E le canzoni sicuramente sono sempre state una questione molto, molto importante, la musica in generale. E pensavo questa mattina, ad esempio, a quella scena del film di Peppone e Don Camillo, l'onorevole Peppone. Vi ricordate i libri di Guareschi, la serie di film con Gino Cervi e Fernandel, no? E Peppone, il sindaco comunista di Brescello, e Don Camillo, l'eterna sfida fra questi due personaggi. E a un certo punto questo film, che è del 55, però è girato nella campagna, è ambientato, è datato nella campagna elettorale dell'aprile del 48, quella dello scontro fra il Fronte Popolare e la Democrazia Cristiana, e in questo film c'è la scena di Peppone, che appunto è candidato, no, alle elezioni politiche, poi viene anche eletto, e a un certo punto in riva al fiume, con una funzionaria mandata dal partito, nasce un po' una tresca, lui arriva col sidecar, non so se vi ricordate, così. Siamo nel 48, lui a un certo punto, lei dice: tu avrai forse 50 anni, lui puntualizza, dice no, 49. E quindi se nel 48 aveva 49 anni, vuol dire che era un ragazzo del 99, insomma, no? Quindi con tutto quello che significa per quanto riguarda la partecipazione alla guerra, così. Poi qualche scena dopo si vede una manifestazione organizzata dai comunisti, dove a un certo punto il popolo, con la colonna sonora forse di Bandiera Rossa dell'Internazionale, va per assistere a un comizio, e il perfido Don Camillo cosa fa? Lancia a tutto volume dall'impianto voci del campanile la canzone del Piave, vi ricordate? E allora tutti questi coetanei di Peppone immediatamente cambiano proprio il passo, no? E cominciano a marciare proprio, no? E poi deviano, non vanno più nella piazza dove era previsto il comizio dei comunisti, ma vanno alla lapide che ricorda i caduti della Prima Guerra Mondiale, no? Quindi vedete il meccanismo della musica che riporta immediatamente a una certa epoca, a una certa mentalità. Sicuramente questo meccanismo è importante quindi per ognuno di noi, e sicuramente la musica è importante, non solamente la musica dotta di cui parla sempre Fornari, ma anche la musica leggera, ma anche la musica rock, ma anche la musica jazz. E se voi andate in una libreria ben fornita, tipo non so, una Feltrinelli, una Mondadori in grande città, avete ormai i settori della musica, che sono poi settori di libri, ma anche CD, DVD, così, che occupano veramente uno spazio enorme, molto molto importante. Io ho portato semplicemente un volume curato da Piero Brunello, intitolato Storia e canzoni in Italia, il Novecento. È stato pubblicato dal Comune di Venezia, la pubblicazione così che ha avuto una diffusione molto molto limitata, come sempre accade quando ci sono queste pubblicazioni realizzate dagli enti locali, è molto importante. E ci sono due CD curati da Antonella De Palma e Cesare Bermani. Cesare Bermani l'avete conosciuto lo scorso anno, l'ho invitato a presentare l'archivio del Storia Orale. Bermani è uno di quelli che negli anni 50 e 60 andava in giro con i primi K7 a raccogliere le canzoni popolari delle mondine, le canzoni di lotta, così, e qualche anno fa ha pubblicato una serie di una decina di CD divisi tematicamente, e con la collana dell'Istituto Ernesto Di Martino, ad esempio questo che ho preso è Addio Lugano Bello sui canti degli anarchici. E quindi canzoni molto importanti, ognuno di noi di fatto ha una colonna sonora della propria vita. Ecco, si parlava prima anche delle difficoltà che c'erano una volta, no? Per raccogliere materiale sonoro, no? I primi registratori, le bobine, il passaggio delle bobine ai registratori, il passaggio poi ai CD. E adesso di fatto rimaniamo anche sconvolti, impressionati da quanto è facile scaricare poi musica e non solo e dalla rete. Quindi anche lì faremo la figura praticamente di quelli fuori dal mercato tecnologico con i nostri figli. Però prima di dare la parola al mitico Tila Antonio Mola, che lavora presso la Ripartizione Cultura Italiana e da sempre è collaboratore di Radio Tandem e si occupa da sempre di questioni legate a concerti, sia per quanto riguarda l'organizzazione, sia per quanto riguarda il commento di concerti di musica rock. Collaboratore già del mattino di FF, di Scolaste, Tam Tam, Reisen der Bösen. Ecco, prima di dare la parola a Till, che nella sua breve biografia ha scritto cresciuto musicalmente, voi capite ben che mai termine fu più appropriato, insomma, volevo semplicemente leggere molto velocemente questa poesia tratto dal libro di Stefano Benni intitolato Prima o poi l'amore arriva, un libro pubblicato nell'81. Carino, e parla proprio, si intitola Colonna Sonora e dice Bach, i giardini di Versailles, Mingus, la mattina a Venezia, i Beatles, la finestra del liceo, Lou Reed, le botte con la polizia, i King Crimson, una donna, è necessario che spieghi? Vivaldi, un campeggio in Spagna, Archie Shepp, i miei amici arrabbiati, i Rolling Stone, la voglia di scopare, Dalla, i colli in macchina. Joe Cocker, il mio ospedale. A voi non è mai capitato? Tchaikovsky, Gioventù e pugnette. Coltrane, la pioggia a Reggio. Verdi, mio zio cacciatore. Brel, la mia stanza a Parigi. E Mamma Bea, un'altra donna. E mentre scrivo, ascolto Brahms. E voi avete una colonna musicale per la vostra vita a colori? Ecco, grazie. Buonasera, io sarò molto più terra a terra, se così vogliamo, rispetto a Giorgio delle Donne. Consiglio questo libro soprattutto ai coetanei, che aveva 20 anni o poco più, era adolescente o poco più nel periodo degli anni Ottanta, perché il libro è pieno zeppo di riferimenti culturali perché quegli anni li ha vissuti da ragazzo. È anche un libro molto autobiografico, anche se non è tutto sicuramente autobiografico, però contiene delle caratterizzazioni molto, molto precise su quelli che erano i luoghi del rock. C'è una, come dire, una carrellata dei posti più in voga prima dell'avvento dei vari palasport, prima dei festival o le feste del Talvera, e narra anche molto bene come è cresciuta Bolzano da un punto di vista culturale. Come stile ricorda moltissimo, come lettore, il libro Alta Fedeltà di Nick Hornby. Mi è venuto subito in mente questo paragone, soprattutto per i riferimenti. Chi l'ha letto ci trova praticamente la propria vita piena di riferimenti a cose che ha vissuto, quindi con delle, come dire, con delle atmosfere. In questo Pontoni è molto bravo a fare come dire, un elenco del gergo usato negli anni Ottanta anche dai ragazzi, quindi molto vicino. L'ho letto in 3 ore, cioè, dico tutto, in 3 ore va via che è una meraviglia, è proprio un libro molto molto veloce da leggere. Fa riferimento sia ai concerti, al fatto di come entrare ai concerti gratis, soprattutto come fare i portoghesi, come vivere il rock da senza soldi, no, mi passi questo termine, insomma. Fa anche dei riferimenti a quelli che erano i viaggi, in un periodo in cui Bolzano era fuori da tutto, c'erano i grandi concerti, ma non avevamo ancora il Palasport, non avevamo il Palaonda, e quindi in molti ci si organizzava per andare magari per i grandi concerti a Verona, piuttosto che a Monaco di Baviera, a Milano, ai Festival dell'Unità, a Correggio. cose di questo tipo, piuttosto che non al rock dei club che avevano una certa programmazione. Quindi voglio ricordare magari a Baselga di Pinè c'era il Joy, c'era a Innsbruck c'era l'Utopia, c'era il Treibhaus, si andava alla Theater Fabrica Monaco. Ecco, magari non accenna specificatamente a quelli che sono questi posti, ma allo spirito con cui si affrontavano questi viaggi. Un carattere molto forte all'interno di questo libro è tale Ezio, che tutti riconosceranno in Sandro Forcato, perché è lui, cioè uno lo legge. E devo dire che finisco qui il mio intervento, perché così dalla pancia, insomma, l'ho letto e dico molto facile, molto leggero, ma soprattutto a mio modo di vedere per un target. Che in quegli anni viveva le cose come le ha descritte l'autore. Io passo la parola a qualcuno che è un po' più preparato, più accademico, se così vogliamo, Giacomo Fornari, al presidente dell'Istituto Musicale. Grazie, ma non parlerò in termini accademici anche perché questo libro invita a fare tutt'altro. Già io vorrei contestare una piccola scritta che mi ha un po' inquietato, il termine romanzo, che qui in realtà quasi contesterei perché mi sembra di più e di meglio, in realtà i romanzi sono molto belli, anche io sono un appassionato lettore, però mi sembra questo un'altra cosa, lo chiamerei, non so, un diario, non lo so, qualche cosa del genere, non so, un diario non individuale ma collettivo di certi fenomeni che hanno influenzato la nostra generazione, chiaramente. Ad esempio, vedevo prima quel concerto di Zucchero, c'ero stato. Io che appunto non frequento certo questi tipi di concerti, voi mi vedete quando c'è Abbado, eccetera, eccetera, per Zucchero avevo fatto un'eccezione. E la cosa che mi ha impressionato di più è il fatto che mi impressiona anche della musica, come dire, non colta, non classica, anche se naturalmente in questa musica c'è tanto significato sia musicale che, come dire, anche intrinseco, anche a livello testuale. Quindi anche il termine non colta forse non è un termine giusto da parte nostra, potremmo dire commerciale, ma anche questo non è giusto perché quando Claudio Abbado fa il flauto magico e mi va nelle classifiche delle hit parade normali perché vende tante copie, non vorrei dire che ha fatto soltanto un'operazione culturale, non sto criticando Abbado, ma sto dicendo che anche la musica classica è frutto di un mercato, esprime un mercato che magari rispetto a questo è molto più sovvenzionato e in questo senso la nostra città è molto generosa e la ringrazio sotto questo punto di vista. Quindi anche questa definizione non mi sta bene. Quello che secondo me fa la differenza tra il repertorio, allora diciamo elettrico e non elettrico, tecnologico e non tecnologico, anche qui qualcuno potrebbe dire sì, però c'è qualche compositore che ha usato anche nastri magnetici, Luigi Nono, eccetera, quindi anche il classico può essere estremamente tecnologico. Quello che mi impressiona è il fatto che dietro a questo evento musicale si nascondono altri eventi. E qui in questo senso io non so, dico io e domando anche l'autore se dopo magari ci vuole dare una risposta, se forse Last Love Parade di Mancasola è stata una fonte o se casualmente questi due libri procedono parallelamente a raccontare di ironomani impasticcati, insomma queste cose che la nostra generazione ha vissuto in prima persona e ha pagato anche in qualche modo sulla propria pelle, poi ci risponderai. Trovo bellissime anche le descrizioni dei luoghi, cioè ad esempio quando leggo nel capitolo Samba Patì, che per me del libro è il capitolo che mi ha, come dire, mi è piaciuto di più, mi ha dato tantissimi spunti e su questo vorrei ancora un po' parlare. Leggo, i concerti rock non sono sempre stati un'esperienza esaltante. A volte si metteva una distanza innaturale tra la gente e i musicisti. È il caso di alcuni concerti che ho visto nello stadio della mia città. ne abbiamo visti anche in immagini, con il palco montato sul prato e il pubblico confinato su una tribuna di cemento. Altre volte l'acustica era pessima e per capire che cosa stesse suonando il chitarrista bisognava guardargli le mani se si era abbastanza vicini. Devo dire che qui ho visto che la telecamera da Zucchero vicino, io ero almeno penso a 200 metri, quindi non ho visto, finalmente ho visto quello che faceva, che avesse anche ballato non l'avevo affatto visto. Questo fatto mi dà già una prima riflessione, cioè il fatto che questo tipo di musica è appunto, e non c'era magari bisogno di Giacomo Fornari, però vale la pena di sottolinearlo, questo tipo di musica presuppone un contatto stretto tra il musicista, tra l'evento sonoro e chi partecipa, nel senso che una persona che va a un concerto di musica classica abitualmente è portato a non partecipare all'evento. Ad esempio, se voi lanciate un applauso in un momento sbagliato, vi vergognate, tutti vi guardano e vi cassano e voi avete avuto il torto di aver espresso il vostro entusiasmo, perché quel tempo capita sempre sul penultimo tempo della Patetica di Tchaikovsky, perché l'ultimo tempo è un adagio contrariamente ai canoni usuali e lì l'applauso anche alla Scala, alla Staatsoper arriva sempre. Il povero che lo fa viene sempre tacciato, zittito di ignoranza, eccetera. Dall'altra parte devo dire che il presupposto di questo tipo di musica è invece proprio il contatto con il pubblico, cioè il fatto che la gente assieme costruisce un evento sonoro, e questo mi ha veramente impressionato e questo mi è risultato molto chiaro appunto da questo capitolo di questo libro che devo dire mi associo con Till Mola, è un libro veramente molto bello. Till Mola ha usato un'espressione meno da maestrino della mia, però permettetemi, oggi ho fatto serie di lezioni in conservatorio e continuo a fare il maestrino, e cioè lui ha detto si legge velocemente, io lo traduco in è scritto molto bene, e questo è anche una dote importante. Se voi andate a un concerto, sentite della musica esteticamente importante, ma la musica non è scritta bene, vi lascia un po' perplessi, invece quando la musica è scritta anche bene e viene eseguita bene, naturalmente il piacere è doppio. Altra cosa che mi ha fatto riflettere, e quindi io sono veramente grato a questo libro per avermi fatto capire che dietro questa musica c'è un evento, come dire, estetico, perché la musica è estetica, ma anche un evento sociale, cioè qualche cosa che va dentro la nostra pelle, come forse la musica colta non riesce a fare. Dopo aver citato il testo Waves of Fear, scusate il mio pessimo inglese, leggo: ho un amico che ha avuto qualche problema di testa, e chi non ne ha? E questo effettivamente mi associo. Mi descrive grosso modo le stesse sensazioni. Mi dice che a volte al mattino, quando si alzava, pensava: ora devo vestirmi e andare a comprare le sigarette che sono finite. E questa preoccupazione cresceva dentro di lui, cresceva come un tumore assieme alle difficoltà che gli sembrava di dover affrontare. Cosa mi metterò per uscire? Forse ho finito la schiuma da barba e non posso radarmi. E se il tabaccaio fosse chiuso? Ho solo un pezzo d'accento nel portafoglio. Sicuramente non avranno da cambiare. E così via, un'angoscia dietro l'altra che lo avvolgeva come il Domopak. Tra l'altro questa immagine è stupenda. Mi immagino uno che si mette il Domopak e veramente soffre di questa angoscia, sempre più strettamente, fino a paralizzarlo, fino ad impedirgli di uscire, di fare alcunché. Interessantissimo questa, come dire, questa associazione tra i sentimenti del pubblico, del recettore della canzone e del produttore della canzone. Sappiamo anche che se impasticati erano alcuni dei nostri compagni di scuola, spesso neanche per forza i peggiori, potevano essere anche i migliori, impasticati erano anche coloro che producevano la musica, e quindi questa esigenza di vivere un'esperienza a livello totale, a livello fortissimo, ha connotato senz'altro questo repertorio. Vorrei chiudere ora con una piccola citazione molto bella che ci fa capire anche che dentro questo libro non c'è soltanto un racconto di eventi sonori, di persone impasticate come io spiritosamente, polemicamente ma fraternamente sto dicendo, ma anche ci sono gli eventi sonori. E qua ho trovato veramente una pagina molto bella che mi ha aiutato molto a riflettere sulla musica. Poi mi sono ascoltato anche un po' di cose che vengono citate. Effettivamente ho trovato questi giudizi, secondo me, molto interessanti. Leggo. La musica è complessa, piena di stacchi, cambi di tempo, di pieni e di vuoti, di urla e di sussurri. Ecco, anche questo di pieni e di vuoti, che noi definiremmo tutto sommato di musica e di pause, ma trovo che sia veramente una definizione molto bella, perché la musica è davvero piena di pieni e di vuoti, e soprattutto questo tipo di musica. Sembra musica classica, dopo un po' ci si sfinisce persino ad ascoltarla. Questo l'ho trovato molto, quindi per forza una alla fine. Potenza e controllo, nessun machismo inutile, anzi Plant sembra perfino un po' checca, con quelle mani sui fianchi, i lunghi boccoli che scendono sul viso sbarbato, i palmi o gli indici rivolti al cielo. Eppure i Led Zepp si diedero molto da fare con le groupie, le ragazze selvagge che stazionano ai bordi dei concerti rock, disposte a tutto per trascorrere una notte di follie con i musicisti. Anche questo è un aspetto, come dire, di divismo che il repertorio classico non conosce assolutamente o conosce soltanto parzialmente. Sì, c'è stata la famosa storia di Riccardo Muti che sembrava avesse messo incinta una maschera della Scala, però siamo veramente a livello episodico e non mi immagino che quando Riccardo Muti usciva dalla Scala si trovava queste groupie così che si trovavano attorno disponibili a tutto. Però questa è la cosa più interessante, e cioè il fatto di come questa musica, e qui io me ne sono chiesta la ragione, ma non sono ancora riuscito a trovarla, come questa musica ha saputo suscitare questi sentimenti forti e addirittura estremi, come nessun altro tipo di arte, penso in nessun'altra epoca, sia mai riuscito a farlo. Io mi domando se come dire, tramandare la musica classica, forse dei pezzi non siano andati caduti, e cioè forse noi adesso prendiamo delle note, possiamo ricostruire magari più o meno fedelmente come queste note potevano funzionare ai tempi di Mozart, che effetto potevano fare, ma quello che ci manca è il significato di queste note nel pubblico, cioè ci manca veramente di capire come questo tipo di fenomeno, il fenomeno musicale, allora fosse recepito. Direi che quindi in questo senso il libro di Marco Pontoni non è tanto appunto un romanzo, quanto una fedelissima e fantasiosa descrizione, sembra contraddittorio, di quello che abbiamo veramente vissuto senza accorgersene in tutti questi anni. E per questo io non posso far altro che suggerire la lettura di questo splendido libro, e sono grato alla direttrice della biblioteca che mi ha mandato questo libro e mi ha chiesto appunto di parlarne, perché forse magari mi sarebbe sfuggito, ma penso che sarebbe veramente un peccato, perché appunto questo è un racconto, uno specchio di quello che noi siamo e soprattutto di quello che siamo stati. Allora, che dire, innanzitutto grazie, grazie a tutti voi per essere presenti, grazie a Valeria per avermi invitato alla presentazione di questo libro. È la prima presentazione che faccio a Bolzano, l'ho presentato in qualche occasione a Trento, ma insomma, per me essere qui una valenza particolare. Insomma, il libro tra l'altro è in larga parte ambientato a Bolzano, che insomma, è la città dove sono cresciuto. Ringrazio anche naturalmente i relatori che mi hanno preceduto per gli stimoli e le cose che, insomma, per la carne al fuoco che hanno messo. Ecco, cercherò di insomma, dire sinteticamente cos'è per me questo romanzo, anche se l'autore naturalmente non è forse la persona più adatta a commentare quello che ha scritto. Insomma, eventualmente mi solleciterete voi con qualche domanda, qualche osservazione. Allora, partirei col dire che cosa non è Music Box. Music Box non è senz'altro una storia della musica, una storia dei concerti che hanno avuto come teatro la nostra regione negli ultimi anni. E lo dico così, anche a beneficio di coloro che ad alcuni di questi eventi erano presenti, insomma, potrebbero trovare dei dettagli o dei particolari che non sono esattamente fedeli. Quindi non è una storia della musica, non è una storia della musica in regione. Difendo la definizione di romanzo in questo senso. L'idea di fondo di Music Box è quella di scrivere un romanzo di formazione, in sostanza. Romanzo di formazione, come sapete, è insomma quel genere di romanzo che racconta le vicende di un protagonista negli anni che precedono il raggiungimento della maturità, insomma. Ecco, quindi insomma, è un genere di romanzo con una lunga tradizione nel quale si raccontano generalmente le esperienze appunto insomma, considerate fondamentali insomma, per la formazione di una personalità adulta e completa, quindi il distacco dalla famiglia, la scoperta dell'amore, poi in qualche caso, in epoca anche magari più recente, la scoperta delle ideologie, in passato poteva essere la scoperta degli ideali patriottici e così via, e, fino appunto al raggiungimento della maturità. Music Box voleva essere un po' questo, e secondo me con una particolarità rispetto appunto al genere, cioè quella di non interrompersi sulla soglia dell'età adulta. In realtà l'io narrante procede a raccontare le vicende della sua vita e procede appunto ben oltre quella che si ritiene comunemente essere appunto questa soglia, insomma, che poi nel corso degli anni e dei decenni insomma, è cambiata, si è spostata nel tempo, insomma. E quindi insomma così entra prepotentemente nella fase della maturità, che è anche la fase dell'assunzione di responsabilità generalmente insomma, per ciascuno di noi, quindi l'età della formazione di una famiglia, del crescere i figli, del vedere anche i propri genitori invecchiare vedersi anche allo specchio insomma mentre si invecchia, no? Il thread union, insomma, il filo conduttore della narrazione è la musica, appunto, è la musica rock. Musica rock, si potevano scegliere forse anche altri vettori, no, per raccontare questo. Il cinema, la letteratura, altre forme di, diciamo, così, consumo estetico, insomma, di massa, insomma, che ci hanno accompagnato in questi anni, la televisione, eccetera. Ho scelto la musica rock in parte per una passione, insomma, che coltivo da tanto tempo, ma anche, insomma, per il suo carattere di arte popolare, insomma, ecco, così in qualche modo mi piace definirla, insomma. Arte perché ritengo, insomma, che la musica rock sia comunque una musica impegnativa insomma sul piano estetico, sul piano artistico, nonostante la sua apparente semplicità, insomma, nonostante il suo essere costruita generalmente insomma con pochi accordi, con così di canzoni che si consumano nell'arco di 3 o 4 minuti, eccetera. Ma insomma, questo suo carattere di apparente semplicità, che però insomma, si accompagna anche a contenuti profondi insomma, e molto, molto particolari. In questo caso, allora, cosa abbiamo nel romanzo? Abbiamo in primo piano le vicende, direi assolutamente ordinarie, insomma, dell'io narrante e degli altri, e degli amici, dei protagonisti insomma, che girano attorno al personaggio. E sullo sfondo abbiamo alcune delle grandi vicende della storia degli ultimi 30-40 anni, diciamo così, dall'incidente di Chernobyl, il crollo del muro di Berlino, alle guerre balcaniche, fino, insomma, grosso modo alle Twin Towers, insomma, quindi alle Torri Gemelle, ecco, con cui in qualche modo il romanzo si chiude simbolicamente. Allora, in primo piano vicende appunto quotidiane, ordinarie, direi che insomma rispetto ad altri romanzi del genere sì, l'aspetto così della trasgressione che comunque si accompagna senz'altro insomma a questo genere di musica, però insomma così non è particolarmente così sottolineato, insomma, beh, penso anche rispetto ad altri, non so, romanzi o film del genere come Radio Freccia, dove c'è sì la classica storia della persona che muore di eroina, così. Tutto questo nel romanzo resta sullo sfondo, direi, insomma, che le vicende raccontate sono un po' più leggere forse, però insomma abbiamo queste vicende leggere che si proiettano su uno sfondo che invece è molto impegnativo, insomma, che è dato da vicende storiche che in questi anni si sono succedute. Il punto di vista è il punto di vista di persone che vivono tutto sommato in una realtà abbastanza periferica, insomma, come quella di Bolzano, quindi una realtà, insomma, che non, nella quale queste grandi vicende della storia non impattano in maniera così violenta e immediata, insomma. E tuttavia, insomma, c'è un rapporto, no, fra la loro esistenza, insomma, le loro vicende ordinarie e quanto succede sullo sfondo. Questo rapporto è dato dalla musica rock. Insomma, musica rock diventa in questo caso proprio una sorta di ponte artistico, estetico, che insomma fa da tramite appunto fra così la vita come si svolge, insomma, in città come Bolzano, Trento, Bologna, ma poi ci sono anche altri scenari, insomma, che si susseguono via via, Londra, l'Africa e così via, e appunto insomma questi grandi trend che abbiamo vissuto in questi anni, no? Che ci hanno in qualche modo cambiato la vita. Quindi insomma questa è un po' l'idea di fondo. Naturalmente, anche se dicevo non è una storia della musica, una storia della musica locale, c'era però uno spunto forte da cui partivo, cioè il desiderio anche di raccontare il mondo della musica come io l'avevo visto da ragazzo, facendo appunto queste attività a cui insomma accennava prima Tille anche, e quindi sostanzialmente insomma montando i palchi dei concerti, facendo servizio d'ordine eccetera eccetera, con realtà come appunto la mitica comune, insomma, no, di Forcato. E quindi insomma inizialmente sì, c'era anche questo, sicuramente, il desiderio di raccontare questo mondo. È un mondo con le sue luci, le sue ombre, i suoi episodi divertenti, i suoi aneddoti, le sue improvvisazioni, e raccontare anche come è cambiato, insomma, perché ecco, anni 70, anni 80, insomma, andare a vedere un concerto è un'esperienza impegnativa anche fisicamente, insomma, ore di code, a volte perquisizioni, a volte, insomma, ne parlavamo prima, disordini e scontri prima o dopo il concerto o durante, insomma, cose di questo tipo. Facendo un confronto, insomma, con così, il mondo dello spettacolo come lo conosciamo oggi, direi che le cose sono cambiate in maniera abbastanza insomma, radicale. Racconto di un concerto, quello dei REM, visto così recentemente, credo un paio di anni fa, a Bolzano, insomma, proprio come un esempio di perfetta organizzazione, insomma. E quindi in questo senso le cose sono cambiate. Mi piaceva, insomma, così l'idea di raccontare un po' com'era invece questo mondo 20, 30 anni, 40 anni fa. Ecco, al tempo stesso però, insomma, c'era anche il desiderio di porsi qualche domanda un pochino più impegnativa, perché poi, insomma, io ricordo quando avevo 15 anni ascoltavo questa musica, la musica rock viene considerata la musica per eccellenza, la musica giovane, la musica che ha raccontato il conflitto fra le generazioni, ad esempio, no? Pensiamo a un verso celebre di una canzone degli Who, no? My Generation, diceva, spero di morire prima di diventare vecchio, diceva il cantante, no? E insomma, io quando ascoltavo queste cose a 15 anni dicevo, ma che musica ascolterò poi, insomma, quando diventerò io genitore a mia volta, quando diventerò anch'io, insomma, supererò la famosa linea d'ombra di Conrad, no? In qualche modo, anche se appunto non sappiamo bene dove posizionarla questa linea d'ombra, no? La linea che separa appunto l'età della formazione da quella della maturità. E di fatto, insomma, invece mi ritrovo adesso, insomma, a più di 40 anni, con una famiglia, dei figli, eccetera, ancora ascoltare questa musica, insomma. Quindi mi interessava anche costruire un personaggio, perché poi il libro è autobiografico, insomma, fino a un certo punto, poi da un certo punto in poi il protagonista parla per conto suo, però insomma mi interessava costruire un personaggio che si interrogasse anche attorno a queste cose, cioè come cambia l'ascolto di una musica che apparentemente è appunto la musica della trasgressione, la musica del conflitto generazionale, la musica che insomma sembra tagliata su misura per una fase della vita, insomma, che a un certo punto si chiude, e quando invece, insomma, ci si sposta un po' più in là, insomma. E comunque, insomma, si continua ad ascoltare tutto questo. E insomma, in questo approccio direi che c'è già un po' una chiave di lettura, insomma, del romanzo, nel senso, o forse una duplice chiave di lettura. La prima che io do è, insomma, se si può ascoltare questa musica ad ogni età, significa che ormai, insomma, il rock è una musica adulta, no? Ormai ha parecchi decenni alle spalle, è una musica abbastanza sofisticata, insomma, abbastanza complessa da poter esprimere una vasta gamma di emozioni, di sentimenti, di esperienze, di aspettative e così via. Ho apprezzato prima, insomma, la lettura di quel brano, insomma, no? Che appunto citava una canzone che ad esempio affronta il tema appunto della malattia mentale, chiamiamola così, insomma, ecco. E direi la seconda forse chiave di lettura è anche, insomma, forse questa maturità che si insegue non la si raggiunge mai, insomma, no? Forse oggi le cose sono un po' diverse rispetto al passato, insomma, riflettevo anche un pochino, insomma, su questo, su come ad esempio in passato, insomma, spettasse agli adulti trasmettere il sapere che avevano accumulato in maniera, insomma, quasi automatica, insomma, alle nuove generazioni che venivano avanti. Oggi, insomma, questo rapporto fra le generazioni non è più così chiaro, no? Pensiamo al rapporto con le tecnologie, visto che abbiamo parlato di tecnologia prima. Oggi tanti quindicenni insegnano ai quarantenni come me ad usare certe tecnologie, insomma, perché noi non lo sappiamo fare, loro imparano subito, perché sono cresciuti con questo tipo di cose. Per cui ha ancora senso parlare di età della formazione, di maturità, o le carte sono un po' più mischiate, le cose sono un po' più complicate di così. Naturalmente il libro non dà una risposta definitiva, però insomma è questo che il personaggio lascia un po' intravedere tra le righe, cioè dice, va bene, insomma, io sono arrivato, ho passato la fase in cui marinavo la scuola, ahimè, lo confesso davanti al mio ex preside, perché c'è qualche confessione anche in questo romanzo, quindi ho superato tutta una serie di cose, però insomma non è che sento di avere passato appunto la famosa linea d'ombra di Conrad, mi sento sempre in pista, insomma, e sento che la mia vita continua a cambiare la musica che l'accompagna e che ne fa la colonna sonora, e insomma, e forse è necessario che oggi sia così. Per quanto riguarda le influenze letterarie, devo dire che più volte mi hanno parlato di Hornby. Io ho letto Hornby, parecchi libri di Hornby, e giuro di non aver mai letto Alta Fedeltà, è uno dei pochi, insomma, che non ho letto suoi, e ho letto About Boy e anche altri. E, evidentemente, insomma, ci sono delle similitudini con questo, vorrei che ci fossero anche sul piano delle vendite, ahimè, perché Hornby, come sapete, è uno dei lettori, è uno degli scrittori più oggi più gettonati, insomma, e poi soprattutto i suoi film, insomma, credo che gli abbiano fatto guadagnare una valanga di soldi, insomma, temo che non sarà questo il caso di Music Box, ma insomma, se ci fosse qualche produttore in sala, insomma, io sono qui. Guardate, mentre stavo scrivendo questo libro, ricordo che stavo leggendo un romanzo di un autore americano. Il romanzo si chiama Le correzioni di Jonathan Franzen, un romanzo forse qualcuno di voi ha letto, è un romanzo di 400 e passa pagine, insomma, uno dei romanzi più straordinari credo siano usciti negli ultimi anni, e appositamente leggevo un romanzo così per come dire, evitare il problema, insomma, che a volte si pone quando si scrive qualcosa, insomma, cioè quello di avere un'influenza molto forte, insomma. Leggendo un romanzo così non correvo questo rischio, perché veramente è impossibile imitare la scrittura di Franzen. Direi che una caratteristica di questo romanzo però è quella di essere un romanzo che insomma utilizza registri narrativi diversi. In questo senso sì, non è un romanzo a tutto tondo, insomma, perché sul canovaccio del romanzo di formazione, diciamo così, poi si innestano anche altre cose, per cui il fatto di essere scritto in prima persona, ad esempio, consente al protagonista tutta una serie di divagazioni, insomma, libere a volte, che hanno un carattere quasi saggistico, insomma, ecco. E altre volte consente di raccontare degli episodi appunto che realmente si sono svolti a Bolzano, a Trento, insomma in altre città, ma soprattutto per quanto riguarda la prima parte, insomma in Alto Adige. E ci sono anche, viene utilizzato molto liberamente anche del materiale proprio tratto dalla musica, delle canzoni, cioè testi delle canzoni che entrano nella narrazione, tradotti insomma. E questo perché per me, insomma, i testi delle canzoni inglesi sono sempre stati molto, molto importanti, insomma. La musica rock si può ascoltare anche lo stesso, insomma, anzi, forse a volte è meglio non conoscere il testo, anche perché a volte il testo è deludente, insomma, rispetto alla canzone che magari invece acchiappa. Diciamo così, insomma, l'amore originario, insomma, mio in questo caso, non del protagonista del libro, è per la parola scritta prima ancora che per la musica. Nel romanzo invece le cose non stanno proprio così. Ad un certo punto della vicenda il protagonista dice che approda attraverso la musica, approda la letteratura, no? Volevo dire questo concetto perché in effetti a volte è successo, mi è successo personalmente, cioè mi è successo di arrivare a degli autori attraverso la musica. Questo è un esempio di come in realtà la musica rock, apparentemente semplice, in realtà sia una musica che in alcuni casi, insomma nei casi più alti, insomma più interessanti, consenta anche, insomma, di spaziare in altri ambiti, insomma, artistici. Poi, particolare per quanto riguarda i miei interessi specifici, quello letterario. Però per quanto riguarda me invece non è stato così. Cioè, ho coltivato prima l'amore per la parola che per la musica o per le canzoni. E questo mi ha portato, quando ho scoperto la musica rock, a cercare così di andare anche al di là, insomma, delle emozioni, delle sensazioni molto forti che la musica poteva produrre, quindi traducendo i testi, o insomma meglio comprando le traduzioni dei testi, eccetera, e quindi scoprendo anche poi il mondo che ci stava dietro. E direi che è stato un apprendistato molto forte, insomma, ecco, se dovessi dire in sintesi, insomma, nelle alette di copertina il libro viene definito come una dichiarazione d'amore al rock. In effetti è così, insomma, nel senso che insomma, questa musica è stato un viatico importante per molte cose, insomma, è stato al tempo stesso, in qualche caso, insomma, uno strumento che mi ha offerto qualche chiave di lettura in più della realtà, e anche di realtà drammatica, insomma, qui si parla ad esempio appunto delle guerre balcaniche attraverso un concerto, un concerto di questo gruppo Consorzio di Suonatori Indipendenti. Si è tenuto a Trento qualche anno fa, ma avevano suonato anche a Bolzano comunque, un gruppo che aveva suonato tra l'altro anche a Mostar proprio durante la guerra, insomma, quindi molto, molto addentro in queste cose. Questo per la mia generazione, la generazione che mi precede probabilmente si è avvicinata alla guerra del Vietnam attraverso la chitarra di Hendrix, non so, attraverso le canzoni di Dylan, ecco. Quindi, insomma, è uno strumento importante per così decifrare a volte, insomma, la realtà anche lontane, e al tempo stesso anche un viatico verso altre espressioni artistiche, insomma, ad esempio verso la letteratura. C'è un capitolo nel romanzo, si intitola The Raven. Raven è un famoso poema di Edgar Allan Poe. Il capitolo prende spunto da un disco che è uscito qualche anno fa, un disco di Lou Reed, che è interamente dedicato alla poetica di Poe, insomma, di questo grande autore americano che insomma, fece anche una fine triste, no? Devastato dagli eccessi, devastato dall'alcol, eccetera. Il disco prende Poe come spunto per porsi anche delle domande un pochino impegnative attorno alla musica rock, cioè che cosa spinge tanti cantanti, ma insomma anche tante persone normali, insomma, a trasgredire, ad assumere dei comportamenti anche autolesionisti, insomma, come quelli a cui tu facevi riferimento. Qual è la pulsione a livello psicologico che ci sta dietro, no? questo tema poi viene sviscerato attraverso tutto il disco e insomma prendendo spunto insomma, dagli indizi che può semina nel corso soprattutto dei suoi racconti, no? Che apparentemente i racconti del terrore, insomma, ma che nascondono sempre qualche cosa dietro. E questo insomma, mi pare insomma, sia un esempio interessante di come una musica che sostanzialmente insomma, una musica pensata anche per fare ballare, per fare muovere il bacino, per fare muovere il sedere, per fare festa, per trasmettere energia, e sia anche in grado insomma, di porsi degli interrogativi interessanti. Quando riesce in questo suo intendimento, secondo me abbiamo alcuni degli esempi più interessanti insomma, a livello musicale, insomma, che sono poi anche quelli che restano nel tempo. Insomma. Credo di insomma, avere un pochino sintetizzato quelli che erano in qualche modo così le intenzioni di base. Poi insomma il romanzo è fatto di tante cose, di tanti aneddoti, insomma, alcuni divertenti, altri meno, insomma. E ecco, forse aggiungo un po' a mo' di chiusura che non è un romanzo che si rivolge necessariamente agli esperti di musica rock, insomma. Naturalmente chi ha vissuto alcuni degli eventi o chi conosce insomma i musicisti a cui si fa riferimento può trarre un piacere maggiore, insomma, ma così, insomma, l'intenzione era quella di scrivere un romanzo per l'appunto, insomma, per quanto un romanzo abbiamo visto un po' particolare, che fosse accessibile a tutti, insomma. Del resto io dico, io sono a digiuno, perlomeno abbastanza digiuno di musica, tra virgolette, colta, ma insomma, quando trovo, non so, nei romanzi di Kundera i riferimenti a Janacek o altri, insomma, riesco a naturalmente non voglio fare nessun paragone fra me e Kundera, per carità, insomma, però ecco, anche se Kundera compare, però voglio dire insomma si può riuscire a trasmettere insomma anche a una persona che non è esattamente addetta insomma ai lavori una serie di cose, insomma, di messaggi, così spero almeno insomma che il romanzo ci riesca. Grazie ancora. E siamo qua. Io questa mattina pensavo a cosa avrei detto questa sera e pensavo a un concerto significativo della mia vita e ho pensato a sabato 3 luglio 1982. La mattina alle 10 mi sono laureato in storia a Bologna, poi alle 10 e mezza si è laureato Giorgio Mezzalira, entrambi in jeans, maglietta con le a strisce, senza parenti, senza pubblico, senza amici. Poi sono entrate le ragazze che si laureavano in lingue con le mamme piangenti, così io e lui siamo andati a farci un bianco da Pierino in via delle Belle Arti e poi in autostop siamo tornati a Bolzano, perché sabato 3 luglio 1982 la sera alle 8 e mezza allo Stadio Druso c'era il concerto di Frank Zappa. Ecco, momento storico. Pensando a questo, istintivamente ho fatto il numero telefonico di Gregorio Gobbi, perché è praticamente il più grande esperto di Frank Zappa, subito dopo sua mamma, ecco, dopo la mamma di Frank Zappa. Ecco. E allora Gregorio è un grigio funzionario dell'Astat, però anche i grigi funzionari dell'Astat sono stati giovani 30 anni prima, ecco. E gli ho detto, ti ricordi questo concerto? E lui mi ha detto, come no, ho ancora il concerto e anche il biglietto. Allora adesso io invito, faccio una cosa molto brutta, però invito Gregorio a fare una performance, a farci vedere i manifesti di questi concerti degli anni 80. Gregorio all'epoca era collaboratore di Radio... Forse c'è stato qualcun altro a questi concerti. Il festival di Licola, Parco Lambro, queste cose qua. Cioè, sì, ma... Non vergognarti a tirarli fuori, cioè, so che c'eri, per cui insomma... Parco Lambro, se qualcuno si ricorda il Parco Lambro. Ma... Io mi ricordo la canzone di Giorgio Gabri. Mi fa. Prendete in giro quelli che andate al Parco Lambro, perché lo slogan era nudi sì ma contro la DC, e Giorgio Gabri diceva è già inutile andare contro la DC, è assolutamente assurdo andarci anche nudi praticamente. Io abbiamo visto tre giorni di concerto assurdo. A giugno del 76. E mi ricordo che c'era l'utopia del 50% alle elezioni del 76, cioè le sinistre, ma erano una delle belle parole d'ordine. E ora è ora potere chi lavora. Va bene, abbiamo... Adesso non piange, non sono nostalgico, io ascolto anche le cose nuove. E non solo, ascolto anche le cose vecchissime, perché ho una discografia a casa di musica classica. Grazie. Ah sì, ecco, in effetti c'è stato anche questo, questo è un ricordo indelebile. Noi eravamo all'ultimo banco, questo ci identificava un po', insomma, noi tre, insomma, siamo tutti presenti in questa sala in questo momento. E tra le cose a cui ci dedicavamo, ahimè, insomma, a volte tralasciando il greco e il latino c'era anche il solfeggio, perché a un certo punto avevamo deciso di impegnarci, insomma, entrare dentro, no? Nei meccanismi della musica, conoscerla bene, insomma, per cui andavamo a fare un corso di chitarra e poi, insomma, il solfeggio lo facevamo in aula.